Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di vino, anche perché da domani inizia questa grande kermesse che è il Vinitaly, forse la seconda, se non prima pari merito, fiera più importante del vino oggi in Europa. Quindi non dico che siamo obbligati di vino, ma il vino offre sempre spunti molto molto interessanti, e quindi parleremo di un argomento molto particolare. Ormai si sa, si beve sempre meno in questo paese, ma in tutti i paesi produttori, vecchi produttori di vino, mentre si beve di più, è cresciuto il pro capite di bevuto nei paesi che non sono produttori. Quindi questa è la grande novità degli ultimi 7, 8, 10 anni, ma il calo è stato veramente molto forte in Italia. Ebbene, il calo è stato molto forte, l'Italia consuma meno vino, si esporta però più vino italiano nel mondo, e la dicotomia è ben chiara. Sul mercato italiano ci sono ricerche che dicono si beve di più vino sopra i 5 euro, mentre io assisto alla continua apertura di cantine che offrono vino sfuso, di locali che offrono vino sfuso, insomma una dicotomia di consumo molto forte. Non solo, sempre di più ci sono iniziative di aziende, di consorzi, di gruppi di produttori che mettono il vino in brick e in bag in box, e questo sicuramente per risparmiare, per poter vendere il vino a minor prezzo, che vuol dire che la domanda sicuramente è molto bassa a certi livelli. Quindi di questo discuteremo. Io comincio a parlare, però anche voi cari radioascoltatori potete intervenire. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Buongiorno a Emilio Pedron, che oggi è presidente del consorzio della Valpolicella, ma anche amministratore delegato dell'azienda Berdani. In passato è stato amministratore di un grosso gruppo, il gruppo italiano vini, che sicuramente aveva vini anche di prezzi diversi. E a lui appunto faccio, muovo questo primo interrogativo. C'è dicotomia sul mercato, cioè si va verso vini di grande qualità e in basso alla scala ci sono vini, non dico di pessima qualità, insomma di basso costo. E questo ormai, questo che sta avvenendo sul mercato, Pedron? Sì, sempre di più. Da molto tempo si parla proprio di vendite polarizzate, no? Che si doppiano le quantità e le tipologie di prezzo molto di primo prezzo, quindi abbastanza basso, e poi invece salgono quelle di prezzo alto. Questo non è un fenomeno solo italiano, ma abbastanza internazionale. Io sto parlando oggi con i nostri importatori americani, ci hanno portato dei dati che riflettono la stessa situazione. Io credo che questo sia dovuto proprio fra la separazione fra i vecchi bevitori, vecchi in senso di usi e abitudini, non solo di anagrafica, di età, e nuovi bevitori, cioè bevitori di giovani, più moderni, che amano la qualità e di bere solo in determinate occasioni, in quelle occasioni vogliono il vino più buono, migliore, percepito come migliore. C'è un altro fatto, secondo me, abbastanza importante, che oggi in Italia assistiamo a una diminuzione abbastanza consistente delle quantità di vino bevute fuori casa, quindi ristorante, bar, per i noti motivi dei controlli durante la guida o altre cose, mentre c'è ancora un aumento di vino bevuto a casa. E nel bevuto a casa, quindi dentro le mura domestiche, cresce la qualità. Si beve vino che vale di più e che costa di più. Ecco, questi sono i due fenomeni abbastanza veri e ormai presenti sul mercato. Senta, ma produttori di marchio importante, come anche il suo, quello che lei rappresenta, non fa paura, il proliferare di vendita di sfuso in giro, per i negozi dell'Italia? No, secondo me sono proprio, si rivolgono a consumatori diversi, si rivolgono a consumatori che hanno, hanno proprio dei sistemi, di modi di bere e di consumare il vino in maniera diversa. I primi, chi compra lo sfuso, sono chi beve ancora parecchio vino, chi lo vuole sempre a tavola tutti i giorni, invece la bottiglia, come nel caso di Bertani, è riservata a determinate occasioni, in determinati momenti, o al ristorante o a casa, però non tutti i giorni. Quindi sono proprio momenti di consumi diversi e rivolti a categorie di consumatori diversi. Bene, grazie Emilio Pedron, la ringrazio, grazie, a presto. Grazie, sentiamo Fabio da Firenze, radioascoltatore, buongiorno Fabio. Buongiorno dottor Davide. Io telefono perché proprio in occasione di oggi, stanotte, abbiamo pubblicato un sito che si chiama Per Cantine e praticamente ha la voglia, l'ambizione di poter mappare in Italia tutti i punti che vendono vino sfuso, che non vuol dire appunto come un tempo il vino sfuso era quello di minor qualità, anzi si trovano delle qualità altissime e nei punti vendita si trovano anche le bottiglie, siccome le tasche delle persone non sono più non hanno più la disponibilità di un tempo, però piace sempre più bere il vino buono, è un'occasione per andare a prendere una bottiglia magari di quel vino che costa 15-20 euro, ma contemporaneamente trovare del vino garantito, guardare in faccia chi lo vende e avere un feedback, perché uno può anche criticare a questo punto, certo. No, non mi piace. Senta Fabio, avete fatto una mappatura, quanti sono i punti vendita di vino sfuso più o meno? Allora, allo stato attuale sul sito, proprio perché siamo un po' in corsa col Viniter e tutto, sono presenti circa 300 punti, ma noi abbiamo già censito oltre 2000, la cosa sta crescendo molto più di quello che ci aspettavamo, credo da una stima riduttiva siano oltre i 4000 punti in Italia. Bene, questa diciamo è una grande notizia, la ringrazio di aver chiamato perché sicuramente non sapevo di questa iniziativa, anche se lei mi dice che va in onda, diciamo che da oggi mi sembra, lei dice è visitabile su internet, quindi molto interessante, la ringrazio. Beh, facciamo così, ci dica anche come si chiama il sito, perché così chi volesse trovare punti vendita di sfuso può trovarlo. Percantine.com. Io do il buongiorno a Gianni Zonin, presidente della Casa Vinicola Zonin. Buongiorno Zonin. Buongiorno dottore, ben trovato. Grazie, volevo chiedere a lei, ma secondo un produttore che è sul mercato, un po' su tutti i mercati del mondo, le aperture, tante aperture di locali di vino sfuso preoccupano? Ma guardi, io sono del parere che l'importante è che si consumi il vino, perché in Italia purtroppo negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un calo continuo dei consumi, pensi che negli anni 60-70 c'era un consumo di 120 litri pro capite, oggi siamo a 40 litri e secondo me arriveremo anche a 39-38 litri pro capite. Poi dovrebbe arrestarsi questo calo, quindi ci sono varie situazioni, ci sono i giovani, c'è l'ecologia, ci sono tanti... C'è l'economia, la crisi economica, anche questa fare certe scelte ai consumatori. Per cui io dico, consumiamo il vino e che il vino sia buono. Poi il consumatore sceglierà qual è, a seconda anche della tipologia del consumatore, dell'esperienza, dell'età, quindi possono anche cambiare. Ecco, lo vedo più un consumo per i giovani, forse questo. Rimanga con noi, sentiamo Maurizio dalla provincia di Cuneo, radioascoltatore, buongiorno Maurizio. Buongiorno Davide, ma secondo me il problema è questo, si è passato da un prodotto che faceva parte della nostra cultura alimentare, cioè faceva parte della nostra dieta, il vino, a un prodotto che col passare del tempo per una serie di operazioni anche di marketing, no? Non fatto precisamente dai produttori di vino, ma lasciato a terzi, il vino è diventato un prodotto un po' di moda, no? Quindi anche la nascita di nuove realtà commerciali che lo sbicchieravano in abbinamento a prodotti tipici e via dicendo, non ha aiutato certamente e non ha favorito il senso e l'orgoglio di appartenere a una terra come l'Italia, enologicamente molto, molto importante, differenziata per origini di vitigni e via dicendo, e ha lasciato così percorrere questa strada, si è percorsa questa strada per cui il vino è diventato un po' moda, no? Secondo me il problema è proprio un problema di produttori che non sono riusciti a far capire invece che il vino è un prodotto che fa parte della nostra dieta e quindi va bevuto con consapevolezza, ma va bevuto perché fa bene. Il prodotto è un prodotto straordinario che nel nostro organismo riesce a favorire alcuni elementi. Certo Maurizio, ma io credo che la cultura alimentare è cresciuta, ora non esageriamo, sì, saranno diventati di moda certi vini in certi periodi, però cioè, la cultura alimentare è cresciuta, oggi si beve meno, ma si beve meglio, su questo no, non ci sono dubbi. Certo, calano i consumi, erano troppo alti, sono ancora troppo alti anche in Francia e in Spagna, che li stiamo seguendo, però anche loro stanno calando, il che vuol dire che è proprio tipico dei paesi dove c'è una cultura del vino ancora oggi, quindi di consapevolezza probabilmente di quello che si beve. Grazie Maurizio. Sentiamo, abbiamo con noi Nino Inzerillo, presidente della cooperativa Cantina Sociale Alto Belice, che è una delle aziende che fornisce il vino per il progetto Vini Pop Sicilia, vini in brick e bag in box, insomma quello che dicevamo, diciamo si cerca sempre di far spendere meno. Buongiorno Inzerillo. Buongiorno carissimo. Perché avete deciso di mettere il vino in brick e bag in box? Abbiamo deciso questa strada perché vino qualità si può mettere anche in box e prezzo qualità può dare un risultato importante per la nostra terra di Sicilia. Ma questo perché avete notato cioè una riduzione di consumi di vini a certi prezzi? Per questo? Abbiamo riscontrato questo perché il vino in vetro costa, anche se non lo facciamo pure, però siccome abbiamo i quantitativi e la qualità, abbiamo deciso di sposare questo progetto con la Regione Sicilia. Devo dire che Elio D'Antrazzi, l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, dottore Dario Cartabellotta dell'IRVOS, dell'Istituto Regionale dell'Olio di Sicilia, e ci stanno mettendo la faccia, nel senso che sono i primi attori assieme a queste tre aziende che abbiamo fatto lati, però è un progetto aperto a tutte le aziende siciliane, almeno la regione vuole fare questo. Questo prodotto sarà venduto e partirà solo con la GDO in Sicilia, il primo appuntamento, poi a livello nazionale e poi vedremo cosa succederà. Quindi tutto basato sul mercato interno, mi sembra di capire. Attualmente il primo appuntamento è con la GDO Sicilia, perché vogliamo fare conoscere questo prodotto in Sicilia, anche perché si tratta di un Cataratto e un Nero Tavola, che sono due vitigni autoctone siciliani, e quindi prezzo qualità pensiamo di spuntarcela. Poi con questo Vini Pop si farà la promozione, quindi c'è all'interno anche l'assessore regionale beni culturali, sì. Partiremo con Antonello da Messina, ma si pensa e si spera che si può promuovere con il vino tutti i giacimenti culturali archeologici siciliani. Rimanga con noi, sentiamo Massimo da Roma, radioascoltatore, buongiorno Massimo. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, sempre ricca di spunti. Allora, io sono un agente di commercio nel settore vinicolo e ho venduto fino a qualche tempo fa vini in fusto da 25 litri che vanno nei locali in mescita, anche locali di livello che hanno impianti per la mescita appunto di queste referenze. Volevo sottolineare che il mercato purtroppo non consente, le leggi non consentono di mettere in fusto e quindi di vendere sfusi alla mescita vini, alcune particolari di OCG o DOC, tipo il Chianti, tipo il Vermentino, se lei prova a mettere... Sì, insomma, tutte le DOCG e tutte le DOC sono tante in Italia. Tutte, non tutte, però molte molto ben protette dai vari consorzi, perché è una questione di forza dei consorzi, riescono a fare in modo di non far mettere, e quindi questo questa situazione qui non permette ai costi poi di essere abbassati sulla mescita, sulla distribuzione. Lei provi a mettere un prosecco di Valdobbiadene nel Conegliano o di Treviso o di Asolo, insomma, in sì. Passa i guai. Bene, allora guardi, poi avremo altri produttori, quindi io invito magari se c'è qualche direttore di consorzio a intervenire sull'argomento, molto volentieri, su questo argomento, magari consorzi che impediscono questo. Ma io voglio tornare da Gianni Zonin e gli voglio chiedere cosa ne pensa lui del vino in brick e bag in box. Beh, cioè, il vino è una materia amplissima e amplissimi sono i consumatori diversi, diversi per passione, diverso anche per capacità di spesa. Il vino sfuso, il vino in briche, il vino in questi contenitori certamente fa parte dei vini di primo prezzo, quindi che possono a seconda dei produttori magari garantire una qualità onesta, però voglio dire non fanno certo l'immagine del vino e non è quello che a mio avviso non è su questo che deve puntare l'Italia. L'Italia oggi produce 40 milioni di ettolitri di vino, 24 li mandiamo all'estero, dobbiamo far bella figura, dobbiamo presentarli bene, dobbiamo conquistare tutti i consumatori. Poi, alla fine, c'è sempre uno spazio, abbiamo visto che i consumi stanno calando, ma la fascia dai 5 ai 10 euro sta salendo in tutta, anche la grande distribuzione in Italia, non solo, ma anche nella ristorazione, dottor Paolini me lo può insegnare bene. Quindi questi sono i vini su cui dobbiamo puntare, dove c'è un'attenzione del consumatore che cerca la qualità, che cerca la bella presentazione e che fa onore all'immagine dei vini italiani. Bene, grazie, grazie Gianni Zonin, numero verde 800 24 0024. Torno a Nino Inzerillo. Inzerillo, ci dà dei prezzi dei vini appunto che avete messo, diciamo, in brick and bag in box, più o meno? Tutto per quanto riguarda questo progetto Sicilia di Vini Pop in box, noi abbiamo pensato, infatti ho sentito lui, parlava di crisi economica, e quindi siccome la crisi economica investe il mondo, l'Europa e anche l'Italia e soprattutto noi del sud, e abbiamo pensato di mettere la qualità che mettiamo in bottiglia in questo box, riducendo i costi e dare la possibilità a tanta gente che, visto che c'è il calo di prodotti di consumo, di dare la possibilità di bere questo prodotto, un vino del giorno, un vino di qualità sotto il controllo dell'Istituto regionale della vite dell'olio Sicilia, che controllerà i prodotti. I prezzi, noi abbiamo il 3 litri, partiamo, sono 8,70 euro compreso IVA. Senta, Inzerillo, quanto risparmiate di costo, diciamo, di costo vostro mettendo il vino in brick o in bag in box rispetto alla bottiglia di vetro? Il 30%. Quindi il 30% che voi praticamente togliete, mettete. Quindi ha detto 3 litri, quanto ha detto 3,80, quindi viene 8,70. Ah, 8,70 quanto viene quindi al litro? Compreso IVA. Bene. Sì, vabbè, facciamo il calcolo. Grazie, grazie a Nino Inzerillo. Cantina grazie. Sociale Alto Bellice. Sentiamo Renzo da Pisa. Buongiorno Renzo. Sì, buongiorno. Senta, io le volevo spiegare un po' la mia esperienza, no? Perché girando giù nel sud della Toscana ho scoperto una cosa, che quando le varie aziende agricole, ma Dio, veramente delle belle aziende, fanno l'imbottigliamento, gliene avanza sempre, cioè stimano per l'imbottigliamento 25-30 mila bottiglie e poi gliene avanza sempre diversi quintali di vino. E ho scoperto una cosa, che i vini molto pregiati vengano messi in quelle dame da 5 litri e vengano commercializzati. Ha un prezzo veramente interessante, circa un prezzo, se tenga conto che a volte si trova un rosso di Montalcino o un Montecucco, un Morellino di Scanzano, quelle dame da 5 litri le troviamo a circa 10 euro. Ma quindi, scusi, non di OCG come il Brunello di Montalcino? Non lo possono vendere di OCG, loro lo vendono come il rosso di Toscana, Toscana. No, specifichiamo sì, perché no, questo è importante. Però è lo stesso vino, capito? Io compro un Montecucco in un'azienda lì proprio... Sì. Essendo gente seria, so che l'avanzo dell'imbottigliamento, io compro il rosso di Montecucco a un prezzo decisamente inferiore, quindi io ho trovato sia a livello di Morellino di Scanzano, sia a livello di Val di Cornia, quindi anche a Burgli, c'è varie aziende, capito? Perché il vino di avanza, certo, di questi tempi sicuramente. Allora sentiamo un radioascoltatore, Graziano da Padova, che tanto che è in attesa. Buongiorno Graziano. Buongiorno Paolini. No, volevo dire che sono le cantine le prime che hanno messo su gli impianti di vino sfuso, e poi non è vero che il vino sfuso è un vino a basso costo, perché se noi andiamo in certi supermercati e troviamo delle bottiglie 1,40, 1,50, guardiamo bene, allora a dire che è un vino di cioè del vino sfuso buono. Ha capito? Ma sì, sicuramente nessuno mette in dubbio questo. Diciamo che io dicevo che ci sono due mercati. C'è il mercato del vino, chiamiamolo così, che è stato definito un vino acculturato per acculturati, e c'è un vino anche per tutti i giorni e per mangiare anche a pranzo. Quindi nessuno vuole tirare strali sul vino sfuso, purché sia di qualità. Io credo che ci siano anche dei vini sfusi di qualità. Insomma, 4.000 negozi, come diciamo, sono stati censiti dal sito che è intervenuto prima, poi sentiremo anche un diciamo proprietario di un locale di vini sfusi, sicuramente hanno una certa scelta, ci sono i buoni, ci sono i cattivi come sempre. Bene, io volevo ora abbiamo con noi due produttori, abbiamo un produttore piemontese, buongiorno Gianni Gagliardo. No, buongiorno. Poi abbiamo Marco Caprai, buongiorno Marco. Buongiorno. Allora voglio chiedere appunto questo, se questo fenomeno che sta emergendo del vino in brick, in bag in box, questo fenomeno del vino sfuso, è un fenomeno sicuramente, cioè se è un fenomeno tipicamente italiano, ma loro due che esportano molto e quindi sono presenti sui mercati stranieri, se lo stanno riscontrando anche in altri paesi. Chiedo a Gagliardo per primo. Sì, in Europa è un fenomeno che esiste, credo non si sia mai, non abbia, insomma sia sempre esistito, ecco. In Italia sappiamo, ha avuto era quasi sparito, adesso è tornato, ma penso che il punto sia che in passato il concetto di vino sfuso era di vino della qualità più bassa, l'ultimo, oggi è cambiato un po'. Marco Caprai, diciamo che il consumo pro capite in Italia sta scendendo veramente vertiginosamente, siete preoccupati voi produttori anche di marchi di qualità, quindi di un certo prezzo? Beh, certamente uno dei grandi problemi attuali in Italia, sta scendendo i consumi, la gente è impaurita dalle leggi anti-alcol, nei ristoranti si beve di meno, però ecco, c'è un consumo nelle case che ha dei segnali incoraggianti. Noi insomma dobbiamo vedere che ora siamo in primavera, il Vinitaly è un momento molto importante, c'è molta attesa dall'estero e piano piano riconquisteremo anche quest'Italia quando uscirà dalla crisi. Ecco, però bisogna notare che questa riduzione dei consumi pro capite non è solo un fenomeno italiano, ma è un fenomeno, guarda caso, dei paesi europei produttori di vino. Quindi questa secondo me è un'indicazione, secondo me, precisa, cioè in questi paesi sicuramente piano piano è cresciuta la cultura del vino e non si beve tanto per bere come alimento, considerare il vino come alimento come lo era tanti anni fa. Lei cosa ne pensa, Gagliardo? Ma sì, sono d'accordo, credo che è cambiato il rapporto con il vino nel tempo, quindi il vino è più un fatto culturale, più un fatto, diciamo, è un momento quando si assaggia il vino ed è sempre meno la bevanda quotidiana per qualsiasi situazione. Quindi penso che sia da leggere non in modo negativo il calo dei consumi generali. L'Italia ha altri fattori, diceva Caprai prima, ma in Europa vediamolo come una qualificazione del consumatore. Alessandro da Padova, radioascoltatore, buongiorno Alessandro. Buongiorno a lei. Difatti io, come ho parlato con la ragazza, volevo chiedere che io prendo spesso il nero d'Avola e lo prendo sia con una damigianetta che praticamente è confezionata con 9 euro e poi lo prendo anche sfuso, però molte volte mi dà del prurito. Lei ride? No, rido perché non so, cioè, questo è un fatto sicuramente medico, non so se saremo in grado di risolverlo noi, però gli voglio chiedere questo: innanzitutto, dove lo compra lei questo vino? O ai centri commerciali oppure vanno da questi, come si dice, enoteche che hanno quello sfuso, che hanno dei gusti. Ma volevo chiedere, lei lo compra, vedo che lei chiama da Padova, lo compra a Padova? Da Roma, lo compra a Roma o lo compra in Sicilia? A Roma. Ho capito. Ecco, allora lei, torniamo alla sua domanda. Lei dice che soffre di prurito dopo che ha bevuto questo vino, ma sempre? Sì. Allora non lo compri. Non lo compri più. No, le voglio dire, se io prendo Montepulciano invece, sì, non me lo fa. Quindi solo il Nero d'Avola glielo fa? E Nero d'Avola, sì, e poi anche se prendo la damigianetta, volevo chiedere però giustamente, con 9 euro, sì, 5 litri compreso il vuoto, non so se... Beh, insomma, diciamo che sono i prezzi correnti per vini sfusi in damigiana. Comunque, Alessandro, io non sono un medico, ma le do un consiglio. Non compri più questa damigiana di Nero d'Avola, continui a comprare Montepulciano e altri vini. Grazie Alessandro, la ringrazio del suo intervento. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, io ho in linea Un venditore di vino sfuso a Milano, Aaron Brussolo. Brussolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Paolini. Senta, nell'ultimo, lei da quando vende vino sfuso? Dal 2005 senza bruciori di stomaco, grazie a Dio. Importante quello che hai detto prima, insomma. Compriamo vini che ci facciano stare bene, assolutamente, quello sì. Nel senso, il prezzo può incidere, però voglio dire, effettivamente, che lo si paghi uno, due o tre, a volte troviamo anche vini da 6 euro che possono dar fastidio e insomma vanno eliminati, ecco. Senta Brussolo, volevo chiederti questo, ma come seleziona i suoi vini sfusi? Ma semplicemente diciamo che gli investimenti che ha avuto il marketing del vino dal 2000 in poi, quando si è iniziato a parlare sempre di più di vino rispetto al passato, a dargli quindi una forma più moderna, un'etichetta, ha portato investimenti nel mondo su questo settore, che siamo arrivati al giorno d'oggi che si produce più vino di quanto si consuma. Questa poi è la realtà, nel senso, c'è più vino nel mondo di quanto poi se ne possa consumare. Questo comporta che o sei bravo a creare un brand, un marketing, un prodotto vestito bene, di qualità gustativa ovviamente, per poi essere rivenduto a certe cifre, farne business, oppure tante volte rimane che hai dei produttori che fanno ottime cose ma che poi rimangono invendute. Quindi semplicemente si tratta di andare a selezionare alcuni produttori e portarli via in stock questo vino sfuso, che poi andrebbe imbottigliato, e come raccontava il collega della cantina sociale in Sicilia, ad andare poi a rivendere anche gli stessi prodotti che vanno in bottiglia sfusi. Ecco, questo è il mio lavoro, diciamo. Bene, rimani con noi. Voglio chiedere a Marco Caprai, qual è la fascia, Marco, di prezzo del vino che oggi in Italia, visto che in Italia è il paese più difficile per voi produttori, che riesce, diciamo, a funzionare molto bene? Ma io credo che i vini che vanno dai 7 ai 10 euro riescono ad avere sia un'ottima qualità, confrontabile con il meglio del mercato, sia un prezzo giusto per tutta la filiera produttiva, partendo dall'agricoltore, da chi trasforma e da chi poi lo mette sul mercato. Ecco, il vino a calice ha aiutato anche a consumare di più questi vini anche sopra i 10 euro? Certamente, fino al calice aiuta, perché permette tanto di farli conoscere, vini particolari che sono più rari, più pregiati, che magari il consumatore si avvicina con più difficoltà. E sono prodotti che meritano, prodotti che hanno fatto la fortuna del nostro paese, anche del settore, nei mercati mondiali. Ci hanno permesso di competere con i francesi, ci hanno permesso di competere con il mondo del vino che è più avanzato. Ecco, all'estero Gagliardo, diciamo che l'Italia si sta difendendo non bene, ma sta attaccando molto bene anche francesi ed altro, perché i dati sono veramente straordinari. Questo secondo lei da che cosa è dipeso? Ci sono più fattori. C'è un fattore di rapporto prezzo-qualità, c'è un fattore di forte presenza di buona ristorazione italiana all'estero, di tendenza al made in Italy in generale, c'è sì il fatto che i vini italiani sono sempre più buoni, questo è vero, però c'è da aggiungere che c'è ancora veramente molto molto molto molto lavoro da fare, perché continuiamo a crescere ma siamo ancora bassi in percentuale, in proporzione ad altri paesi, specie francesi, insomma. Sentiamo Piero da Imperia, un radioascoltatore. No, è caduta la linea. Sentiamo Vittorio da Lecco, allora. Buongiorno Vittorio. Sì, buongiorno. Pronto? Prego, prego, parli. No, volevo fare un piccolo appunto, nel senso, io lavoro nel mondo del vino in quanto vendo vino. E a prescindere dal fatto che secondo me non è solo colpa delle leggi che ci sono oggi sull'alcol, questo grosso calo di consumi che c'è stato, ma è dato da fattori anche di chi produce, nel senso, negli anni quando c'è stato il boom e la moda sono costruiti vini estremamente alcolici, quindi se prima magari il consumatore al bar che beveva due o tre bicchieri, oggi con uno massimo due bicchieri è già parecchio pieno. Quindi diciamo vini troppo alcolici. Bene, abbiamo fatto anche una trasmissione su questo, diciamo che è un argomento assieme alla solforosa molto sentito dai consumatori. Bene, grazie a Vittorio da Lecco. Io che ringrazio Gianni Gagliardo e Marco Caprai. Abbiamo con noi Antonio Capaldo, presidente della FEU di San Gregorio. Buongiorno Antonio. Buongiorno Davide. Tu pensi che i produttori possano andare incontro a questa domanda del consumatore, perché sicuramente sarebbe un modo per crescere il consumo? Sì, io penso che nei limiti di quello che alcune varietà intrinsecamente consentono, penso che dobbiamo andare incontro a questa richiesta. Sui solfiti sicuramente già sta succedendo. Sull'alcol, come dicevo, ci sono dei limiti di varietà, di annata, che oltre un certo limite non si può andare, ma la direzione è quella ed è già più o meno intrapresa. Rivella, buongiorno. Buongiorno Ezio. Buongiorno Davide. Buongiorno. Oltre ad essere presidente del consorzio del Brunello di Montalcino e produttore, è un grande tecnico. Quindi voglio chiedere, Ezio, io vedo da trasmissione su trasmissione, quando si parla del vino, immediatamente intervengono i radioascoltatori e chiedono vino meno alcolici e vino con meno solfiti. Tu cosa ne pensi? Vini con meno solfiti già da parecchio tempo che si fanno, ormai siamo al limite, ho visto anche che hanno fatto la normativa sui vini biologici, sono gli stessi che stiamo usando adesso, quindi su quel piano non c'è il problema. Vini senza solfiti è un discorso un po' più difficile, perché cambia il gusto e soprattutto la durata del vino, le caratteristiche organolettiche. Vino meno alcolici sono i vini di 40 anni fa, 30 anni fa, e adesso c'è un po' di inversione di tendenza, però abbiamo ancora un mercato che premia i vini che si beve un sorso anziché un bicchiere, insomma, e quindi ci vorrà del tempo prima che torniamo indietro su quella strada, anche perché l'alcol è uno dei costituenti più buoni del vino e quindi ha la sua importanza. Vedo un sms che mi dice: caro Paolini, domani gita d'alba per riempire 5 damigiane di dolcetto. Beh, sono tante. Brussolo, ha sentito cosa? Quindi non vengono da lei a comprare il vino sfuso, vanno direttamente in cantina. Ecco, sono sempre di più coloro che vanno direttamente nelle cantine, secondo diciamo la sua osservazione? Sì, sì, certo. Cioè, io stesso sono una cantina, no? Quindi gli dirò assolutamente di sì e invito tutti a farlo, voglio dire, sempre un'esperienza altamente godereccia e insomma che ci permette anche di testare bene un prodotto. 5 damigiane, hai detto bene, sono tante, e spero bene che si accompagni un bicchiere di vino come facciamo noi a un pezzo di salame e formaggio. Certo. Per poi essere più convinto ancora del proprio acquisto, della persona ovviamente. Grazie. Quindi, Brussolo, ora leggo un altro sms. Il brick è apprezzabile, ma è impensabile mettere vini che abbiano la necessità di invecchiamento in bottiglia, che in genere sono i più prestigiosi. Ecco, chiedo a Rivella, il brick sulla durata, quanto può durare un vino in brick, più o meno? Beh, il brick ha sua durata naturale 6 mesi, insomma, se poi arriva un anno è già al limite. Certamente la funzione di quella tipologia di vino da pronto consumo, da pasto quotidiano, è quella. È molto diversa da quella dei vini da lunga conservazione o da investimento, come si dice oggi, insomma. Capaldo, in Italia si va sempre di più sulla, diciamo, ad acquistare sulla fascia più bassa. E voi produttore di qualità, cosa pensate di fare per il mercato italiano? Visto vi va benissimo all'estero, ma in Italia? In Italia effettivamente è difficile, anche se in realtà, Davide, si potenzia la fascia bassa, ma anche la fascia piuttosto alta anche in Italia, si vede sempre più questa divaricazione. Noi dobbiamo fare meglio sempre comunicazione. In parte si sono abbattuti anche i costi di distribuzione, quindi i prezzi sono scesi non con un impatto direttamente sul produttore, ma sul distributore. E poi dobbiamo fare comunicazione, che al di sotto di certe cifre un vino di qualità, che abbia delle denominazioni, che abbia un lavoro dietro come quello che deve essere fatto, non si può vendere. Sentiamo Giacomo, radioascoltatore della provincia di Treviso. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, volevo sottoporre una domanda. Io ho studiato che solitamente in un periodo di crisi i paesi tendono a consumare maggiormente alcolici. Perché questo fenomeno controtendenza rispetto al vino? Ha detto prima che vengono consumati meno vini di tutti i tipi, sia di fascia alta sia di fascia bassa, per quanto riguarda il consumo interno. Beh, in realtà addirittura, come ho detto prima, il consumo pro capite in Italia, come in Francia e come in tutti i paesi vecchi produttori, chiamiamoli così, di vino, in Europa sta calando, ma vertiginosamente. Probabilmente anche perché le regole di economia si stanno rivoluzionando, ormai non si può più magari applicare certe regole che si applicavano in momenti di economia completamente diversa. Ora è un po' cambiato tutto, sicuramente ci sono anche altri consumi dove si sta andando. Io credo che il grande fenomeno sia che nei paesi produttori si è passato dal vino alimento al vino bevanda, questa sia la grande trasformazione. Non so se Ezio Rivella è d'accordo con me. Sì, certamente, se vogliamo è anche normale, insomma, vanno i vini che hanno un piedestallo, che sono considerati perché hanno i loro amatori, tipo Brunello, Barolo, l'Amarone e via discorrendo, e vanno anche i vini che costano poco, che sono il consumo della popolazione, diciamo, meno capace come economicamente, ecco. Vedo che continuano ad arrivare sms sempre sul discorso del tenore alcolico. Un radioascoltatore dice: difficile trovare al ristorante un vino con meno di 13,5 gradi. Sentiamo Andrea da Modena. Buongiorno Andrea, un altro radioascoltatore. Prego, veloce perché sto per chiudere. Buongiorno, sarò velocissimo. Io faccio una domanda sui vini di primo prezzo. Mi trovo spesso a fare acquisti presso la grande distribuzione. Sì. E mi capita di trovare dei vini provenienti dal sud dell'Italia, dalla Sicilia piuttosto che dalla Puglia, dall'Abruzzo, a prezzi inferiori ai 2 euro. Giro l'etichetta e trovo imbottigliato o distribuito da case vinicole della provincia di Verona o di zone limitrofe. Caron... E mi domando, sì, com'è possibile che un vino che ha un tracciato così lungo, una lavorazione e tutto il resto, venga venduto a prezzi così proprio da primo prezzo, ecco. Caro Andrea, il mercato è libero, probabilmente se dal punto di vista della legge è tutto ok, si vede che ci sono dei miracoli, il famoso miracolo all'italiana continua ad avvenire. Ma mi tolgo una curiosità, è buono quel vino che lei ha comprato che ha queste caratteristiche? Allora, dico la verità, io ho assaggiato un Nero d'Avola che non è sicuramente un vino da contemplazione, però da tutti i giorni, da pasto, da pranzo, è accettabile per quel prezzo lì. E allora, miracolo all'italiana, non aggiungo altro perché non conosco i dettagli di questa cosa, però sicuramente succede e anche spesso. Ringrazio Rivella, ringrazio Cappaldo, un caro saluto dal vostro gastronauta.